questa baraccopoli di 120.000 persone della capitale di Nairobi, ma questa è una delle 199 baraccopoli che esistono appunto in Nairobi, nella capitale. Niente, questa è un po' la realtà che stiamo vivendo in questo tempo, è stata proprio soprattutto quella delle demolizioni, questo lotta appunto per evitare che il governo portasse avanti le demolizioni, soprattutto negli slum, nelle baraccopoli appunto. Si calcolava più o meno dalle 300 alle 500 mila persone che dovevano essere evacuate, che dovevano essere soprattutto mandate fuori dagli slum, proprio perché il governo appunto aveva lanciato questa minaccia appunto di demolizioni di tre ministeri diversi: il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero dei Trasporti e il Ministero dell'Energia, proprio perché un vecchio progetto che era quello di una tangenziale intorno alla città, vecchio 20 anni, ma mai attuato, e quindi passava esattamente negli slum, e quindi la gente ha cominciato a costruire le baracche su queste terre in questi anni, e poi l'elettricità, cioè la gente che aveva costruito le baracche sotto i tralicci dell'alta tensione. Poi l'altra era proprio quella dove la ferrovia che taglia molto spesso alcuni slum, soprattutto quello di Kibera, che sono un baraccopoli di 800.000 persone, e per 3 chilometri passa la ferrovia, e logicamente la gente aveva costruito vicinissimo la ferrovia. Quindi si è cercato di fare fronte unico per bloccare questa situazione, una situazione un po' unica al mondo, e quindi siamo riusciti a bloccare queste demolizioni. E stiamo aspettando una dichiarazione ufficiale del governo e soprattutto un piano nuovo per fare appunto un progetto più ampio di quello che è le baraccopoli, queste 199 baraccopoli che esistono in Nairobi. Cioè, ormai siamo sempre più davanti a un fenomeno della baraccopolizzazione, quindi dell'urbanizzazione prima di tutto dell'Africa, cioè vuol dire che nei prossimi 15-20 anni il 50%, più del 50%, della gente vivrà nelle città.